Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Mercoledì mattina a Roma il GSE, che è il gestore dei servizi energetici, presenterà il primo rapporto sulla regolazione regionale in materia di procedure autorizzative degli impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili. Si è detto spesso in passato, e certo oggi le cose non sono migliorate molto, che i costi burocratici, per esempio, incidono pesantemente sullo sviluppo delle rinnovabili in Italia. Spesso si parla di un 20-30% di incidenza, che insomma è un valore veramente elevato. E questo è un primo tema rilevante che ci fa capire perché sia necessario tenere sotto osservazione la normativa in merito. Di tutti gli altri temi rilevanti parliamo con Costantino Lato, che è direttore studi statistiche e servizi specialistici del GSE. Buonasera Lato. Buonasera Melis. Lato, ecco, quindi quali sono i principali risultati che sono venuti fuori? I principali risultati riguardano che c'è stata una differenziazione, diciamo, del decentramento delle varie competenze rispetto al livello regionale. Questo è successo che alcune regioni hanno decentrato in maniera totale verso le province, per esempio la Lombardia. Altre hanno mantenuto le funzioni di controllo a livello regionale, principalmente le regioni del sud e del Veneto. Quindi, voglio dire, abbiamo definito una mappa completa di chi ha decentrato che cosa e che a livello certo. organizzativo. A che livello sono le varie responsabilità per quanto riguarda quindi come dire, l'applicazione? Sì. Un secondo punto interessante è qual è stato il grado diverso di semplificazioni dei procedimenti autorizzativi. Certo. In questo caso ci sono regioni che hanno spinto al massimo la possibile liberalizzazione, per esempio Basilicata, Lazio e Bolzano, e quelle che sono pari alla metà, che hanno mantenuto le soglie della normativa nazionale. Ecco, c'è qualcuno che ha imposto vincoli ancora più forti invece? Questo è stato fatto di più nel discorso dell'individuazione delle cosiddette zone non idonee. Ah, ok. Sì, infatti, ben noto, sì. Ben note. Alcune regioni hanno individuato per tutte le fonti, come per esempio Molise e Umbria, le zone non idonee, cioè sono quelle zone dove non possono essere installati impianti a fonti rinnovabili nel sottoelettrico. In altre non c'è stato messo nessun vincolo, per esempio la Sicilia, la Campania, il Lazio e il Friuli Venezia Giulia non hanno nessuna zona non idonea. Un'altra cosa, l'estensione e la riduzione degli interventi regionali del perimetro degli impianti che devono essere soggetti a procedure di impatto ambientale. Ci sono state regioni che hanno avuto un carattere più restrittivo, ossia hanno abbassato la soglia, hanno sottoposto a via anche impianti più piccoli. E invece regioni che hanno mantenuto l'assetto. Diciamo, mi sembra che venga fuori un puzzle complicatissimo comunque questo, da tutto questo. Diciamo, oggettivamente è pacifico. È pacifico. Io credo che però una chiave di lettura migliore di questa prima versione sarà quella poi di andare anche a monitorare e a capire quali sono stati i tempi e i risultati delle diverse... Cioè i tempi medi di concessione o anche di negazione, diciamo, di un'autorizzazione, per esempio. Esattamente, perché poi, voglio dire, uno degli scopi dell'incontro che noi ci aspettiamo e, voglio dire, vorremmo portare avanti è di creare, come dire, una condizione per poter discutere, per poter dare delle soluzioni e, se è possibile, nel futuro anche di definire quella che potrebbe essere nel futuro una razionalizzazione. Una razionalizzazione. Le pratiche migliori diffuse su tutto il territorio. Perfetto. Insomma, ma ridurre questo... la frammentazione applicando le pratiche migliori, no? Però, un po' questo. A dire il vero, vuol dire, questa è una cosa che in qualche modo è riportata esplicitamente nella SEN, dove si parla che si intenderebbe riportare alcune materie, certo, di carattere più strategico in capo allo Stato. Ovviamente questa è un'intenzione di alta politica. Noi, voglio dire, è chiaro che noi offriamo semplicemente voi fate da advisor, diciamo. Noi, esattamente. Ecco, mi sembra di poter concludere quantomeno che, siccome la frammentazione rappresenta un problema, le regioni che hanno frammentato meno hanno fatto bene probabilmente, no? Questo, voglio dire, è una conclusione che, voglio dire, è difficile da dare così su due piedi perché è complessa la situazione, però indubbiamente un discorso di semplificazione potrebbe portare... Ecco, lei è molto cauto perché giustamente ha un ruolo istituzionale, però insomma mi sembra abbastanza chiaro. È una conclusione che non ci sentiamo, voglio dire, di affermare, ma neanche generale, di escludere. Io personalmente potrei dire che bisogna essere cauti nella frammentazione perché ciò crea dei problemi. Questo è il mio parere personale. Grazie Costantino Lato. Buonasera, arrivederci, grazie ancora.